se bisogna capire perché ci sono varie ipotesi, per esempio sul quotidiano di oggi riporto l'analisi di Piotr Buras, che è il capo dell'ufficio di Varsavia dell'European Council on Foreign Relations, quindi una persona che maneggia dati e analisi quotidianamente. Lui dice che c'era un po' di stanchezza da peace, cioè che la tattica dei sussidi del peace non bastava più a un paese che intanto si vedeva la scuola, la sanità smantellati e tante ingiustizie e corruzione. Ma bisogna anche dire che questo è stato un voto molto partecipato anche da parte dei giovani, quindi mi piace pensare, ci sono buoni motivi per pensare, che anche quelle ondate di proteste per il diritto all'aborto, per uno Stato laico, che hanno animato il paese dal 2020 in poi, abbiano fatto maturare nuove generazioni che in figure ultraconservatrici come Kaczynski e Morawiecki non si riconoscono più. E infatti queste sono state le elezioni più partecipate, e se analizziamo il voto anche su base generazionale vedremo che il PIS, gli ultraconservatori, hanno ancora una base tra gli ultrasessantenni, ma le nuove generazioni che guardano all'Europa e a una Polonia laica scelgono indubitabilmente partiti d'opposizione. Cosa succederà invece adesso sia nel paese che negli equilibri europei? Perché insomma qualcuno sta già iniziando a dire che Orban è rimasto solo. Ma lui è abituato anche a questo, insomma, ha affrontato momenti di solitudine come quando ha divorziato dai popolari europei. Ma partiamo da che cosa succede in Polonia, perché su questo se si parla sia con i colleghi di tutto il mondo che sono a Varsavia in questi giorni, sia con i polacchi, ci sono anche timori, direi fondati, che il PiS faticherà ad accettare, a ingoiare questo risultato. Ovviamente le opinioni divergono su cosa farà, fin dove si spingerà per mettere i bastoni tra le ruote all'opposizione. Allora, sempre sul giornale di oggi trovate nel mio pezzo anche le indiscrezioni che mi offre proprio uno dei cervelli del PiS, cioè un eurodeputato del PiS che è noto qui in Polonia come il consigliere di Kaczynski, quindi diciamo un po' il Rasputin del PiS, visto che Kaczynski è il leader supremo incontestato a destra. E le sue parole sono piuttosto inquietanti, nel senso che si passa dall'idea di provare a sgretolare l'opposizione seducendo il cosiddetto terzo polo polacco, però impresa che sarà difficile perché almeno in Polonia il terzo polo sembra resistente a operazioni d'acquisto di questo tipo. E poi ci sono anche le parole più inquietanti che riguardano una sorta di unione della nazione sotto la paura. Ieri, poco prima che avvenisse la sparatoria a Bruxelles, io scrivevo sul mio giornale, riportavo l'analisi di questo membro del PiS che mi diceva: poi chissà, c'è la guerra, ci sarà qualche attentato, bisognerà restare uniti, facendo intendere quasi che PiS avrebbe chiamato all'appello la nazione, anche se l'intervistato nega qualsiasi ipotesi di stato d'emergenza e così via. Diciamo che ogni mezzo verrà utilizzato per mettere i bastoni tra le ruote a Tusk. Ancora più significativo è ciò che dice uno dei leader dei neofascisti di Confederazione, che se avessero avuto abbastanza seggi forse avrebbero fatto da stampella al PiS. Lui dichiara: ma governare Tusk, ma deve tener conto che avrà contro di lui il Presidente della Repubblica, la Corte Costituzionale e la TV pubblica. Questo per dare l'idea che siamo in un sistema che il PiS ha cucito a sua immagine e somiglianza, e adesso l'opposizione deve penetrarlo, ma con i bastoni tra le ruote. Per prima cosa non è detto che il Presidente della Repubblica affidi il primo incarico a Tusk, è molto plausibile che lo dia al leader del primo partito, cioè il PiS. Poi ci sarà tutto un rimbalzo di voti di fiducia e così via, per cui gli esperti prevedono che addirittura si potrebbe arrivare agli inizi di gennaio con ancora il PiS al governo. Possiamo comunque leggere queste elezioni come un segnale a livello europeo, un cambio di tendenza oppure no? Ma io sono fermamente convinta che in realtà la società sia pronta a rispondere ad agende che non voglio definire di sinistra, perché diciamolo chiaramente, Donald Tusk non è un leader di sinistra, Donald Tusk è il centrodestra dei popolari europei, la stessa famiglia politica che in Svezia e in Finlandia si è alleata con l'estrema destra, quindi non bisogna fare di Tusk un santino o un santo, però diciamo che le elezioni ci dimostrano che le società europee sono pronte a rispondere ad inviti al cambiamento in un senso costruttivo, democratico, più orientato diciamo all'uguaglianza. lo abbiamo visto in Spagna e lo vediamo adesso in Polonia. Quello che manca sono sempre leader all'altezza, cioè in Europa finora l'agenda, il dibattito politico lo hanno dettato le destre. Sono mesi che discutiamo dei rapporti tra Meloni e PPE, di cosa succede tra le destre estreme, mentre parliamo poco di cosa succede a sinistra, che sembra sempre un po' andare al traino. Invece i polacchi ci insegnano che la società c'è, che è viva, e quindi tutte queste energie andrebbero canalizzate in proposte politiche all'altezza. Succederà da qui a giugno 2024, per ora non se ne vedono molti segnali, diciamo, nel dibattito europeo, ma io mi auguro che questi elettori stiano mandando un messaggio non solo al governo di Varsavia, ma anche a Bruxelles e altrove.